ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo, non si vede più. A chi non ha uno specchio, e comunque non per questo, non ce la fa più. A chi ha lavorato. Benvenuti a Dedicato. Allora, abbiamo oggi con noi un ospite importante perché parliamo di Palestina a 360 gradi e non solo per la situazione attuale, perché se siamo in questa situazione in Palestina, in un modo o nell'altro ci siamo arrivati. Quindi oggi abbiamo una voce che ci racconta delle storie importantissime, perché parliamo di qualche anno fa ormai, ma di una persona veramente piena di contenuti e di progetti che ha portato prima in giro per il mondo e poi è approdato in Palestina, e parliamo di Vittoria Arrigoni. E abbiamo con noi sua mamma Egidia Beretta, che oltre a essere la mamma di Vittorio è anche la presidente della Vicotopia Onlus. Ciao Egidia. Buongiorno, ciao, eccomi. Allora, noi ti abbiamo invitata in questa trasmissione perché vogliamo parlare con te della situazione palestinese, non solo quella attuale ovviamente, ma appunto il percorso che Vittorio ha fatto per arrivare in Palestina, il percorso che l'ha portato lì e il perché di questo percorso. Quindi io ti lascio la parola, ci racconti tu e poi ci racconterai anche di questa Onlus che vive quotidianamente e porta avanti progetti per i palestinesi, ecco. Quindi vai, ti lascio la parola. La scelta della Palestina da parte di Vittorio è avvenuta dopo molte altre esperienze che lui ha avuto da quando, dopo la maturità, ha iniziato a frequentare i campi di lavoro internazionali, soprattutto nell'est Europa, anche in Africa. Il primissimo è stato in Perù a 20 anni con i volontari dell'operazione Mato Grosso. Vittorio aveva questa ansia, questo quasi un tormento di conoscere il perché fosse venuto al mondo, quale doveva essere il suo posto qui, convinto com'era che ciascuno di noi ha una responsabilità verso la vita. Quindi lui ambiva a trovare una strada che gli permettesse di realizzare quelli che erano i suoi sogni, sogni soprattutto di pace, sogni soprattutto di giustizia, convinto com'era che, ma come noi d'altronde nella nostra famiglia, non ci può essere pace senza giustizia. Quindi lui ha iniziato a mettersi alla prova attraverso questi viaggi, che erano questi campi di lavoro, che erano anche viaggi di conoscenza, perché oltre ad avvicinare le persone del posto c'era anche questo scambio con gli altri volontari che arrivavano a loro volta da diverse parti del mondo. Quindi per Vittorio è stata un'esperienza molto ricca questa. Durante l'anno lavorava nella ditta nostra con il papà e poi soprattutto d'estate lui sceglieva questi campi di lavoro e li frequentava. Quindi così non sono passati diversi anni finché ho incontrato la Palestina a 27 anni, nel 2002. Devo anche dire che tra le passioni di Vittorio c'era anche la lettura. Lui era un lettore onnivoro, di paro passo anche la scrittura. Difatti Vittorio aveva questa capacità non comune di riuscire a trasfondere proprio in parole le sue convinzioni, i suoi sentimenti, capacità che poi si è rivelata fondamentale durante l'operazione Piombo Fuso, di cui parleremo più avanti. Ecco, Vittorio incontra la Palestina, doveva essere un normalissimo campo di lavoro, ma invece lui si trova ad affrontare e a conoscere una realtà delle situazioni di cui era completamente ignaro, di cui eravamo completamente ignari, perché sentire raccontare una volta Gerusalemme Est, che nella vicina West Bank c'erano stati bombardamenti, morti, feriti, case occupate. Vittorio scuoteva la testa, era incredulo, proprio perché leggendo, preparandosi prima di partire, non aveva trovato in alcun modo notizie di questo genere nei nostri mezzi di informazione. Per cui cosa fa Vittorio? Non torna subito da questo campo di lavoro, decide di andare proprio in West Bank per vedere con i propri occhi se i racconti corrispondevano al vero. E lì ha trovato che la realtà mi superava di molto. Mi hanno ucciso senza spegnermi il sorriso, e domani ritornerò. Mi hanno ucciso senza spegnermi il sorriso, così domani ritornerò. Con la pipa, col cappello e col mio sogno più bello. Con la pipa, col cappello, io domani ritornerò. La mia vela vola e canta l'utopia, su nel cielo sopra il mare. Da qui vedo la mia terra liberata, né confini né bandiere. Il mio cuore batte ancora di milioni d'altri cuori. Siamo vivi, vivi ancora, sognatori e vincitori. Se rimarremo umani, domani, domani. Se rimarremo umani, io domani ritornerò. Se rimarremo umani, domani, domani. Stella che ti guida nel cammino, capitano yalla yalla. Un aquilone con due occhi da bambino, capitano yalla yalla. Questo mare è troppo grande per scommetterci la vita. Questo cuore non va a tempo e ti sfugge tra le dita. Hanno fuso piombo e sangue nella sabbia, hanno spento le fontane. Queste guerre fatte in nome della pace sono luride puttane. Cristo a piedi nudi cammina in Palestina, ma una stella con sei punte mi ha spento la mattina. Se rimarremo umani, domani, domani. Se rimarremo umani, io domani ritornerò. Se rimarremo umani, domani, domani. Se rimarremo umani, io domani ritornerò. Ora giochi con un bimbo palestello e dall'alto guardi giù. Ora balli col tuo angelo ribelle, bevi vodka con Gesù. Guadalupe sei un campione di parole clandestine. Clandestino partigiano, sognatore fino alla fine. Capitano con l'ulivo tra i capelli, fiore di prato non di serra. La tua anima un tre alberi di pace che cerca la sua terra. Questa notte alla finestra c'è una luce fine fine, noi sappiamo che sei vivo e ripasserai il confine. Se rimarremo umani, domani, domani. Se rimarremo umani, io domani ritornerò. Se rimarremo umani, domani, domani. Se rimarremo umani, io domani ritornerò. Ha cominciato quindi a prendersi a cuore il popolo palestinese, tant'è che nei 3 anni successivi c'è ritornato, ha cominciato a farsi degli amici, ha incontrato i volontari dell'International Solidarity Movement e ha cominciato proprio ad agire concretamente, facendo scudo umano con i bambini quando uscirono dalle scuole e avevano di fronte i carri armati. frequentando le case occupate per assicurare le persone che vi abitavano, salendo sulle ambulanze e poi anche scrivendo, perché nel 2004 Vittorio apre questo suo famoso blog Guerriglia Radio, sul quale è diventato più il suo diario giornaliero. A parte che lui scriveva di tutto, no? Qualsiasi situazione, anche a livello internazionale, che lo colpisse, che rivelasse degli aspetti che lui non condivideva, soprattutto rispetto alle violazioni dei diritti umani, Vittorio riportava anche con grinta, no? Non si è mai nascosto Vittorio, era molto convinto di ciò che faceva, di ciò che scriveva. Sì, beh, questo lato di Vittorio ce l'abbiamo tutti presente, perché io poi, vabbè, ho una certa età e quindi lo seguivo già a suo tempo, quindi il suo blog lo leggevo e devo dire che frequentando io anche gruppi dei ragazzi dei centri sociali qui a Bologna, in particolar modo era l'XM24 nel mio caso, sono attraverso Vittorio venute tante idee di supporto e aiuto alla Palestina, tanto che si sono formati poi dei gruppi che sono partiti con delle ONG e sono andati direttamente là a portare delle attività, quindi insomma diciamo che Vittorio ha proprio lanciato tanti piccoli semini che poi sono cresciute delle piante meravigliose grazie a quello che lui ha seminato, ecco, quindi questo per dire che il percorso che lui ha fatto è stato utile a 360 gradi, ecco, non solo per sensibilizzare le persone, ma anche per creare dei percorsi e dei progetti veri e propri che hanno poi preso forma. Quindi certo, Vittorio, possiamo dire che ha aperto la strada, ha aperto anche le menti e non si è mai lasciato scoraggiare, perché nel 2005, finito sulla blacklist del governo israeliano, in due diverse occasioni è stato fermato, picchiato, incarcerato. Certo, ritornava a casa molto amareggiato, molto triste, perché gli era stato impedito di andare dove voleva, la prima volta a Gerusalemme, la seconda a Betlemme, e quindi questo lo aveva, come dicevo, molto molto molto molto ferito. Però, come lui scrive anche successivamente, tutto questo non ha mai diminuito o fatto calare la sua propensione alla difesa dei diritti umani. Lui, quando dicevano non sono un giornalista, sono diventato per caso durante Piombo Fuso, ma lui, per lui era importante affermare che la sua vera vocazione era quella di difensore dei diritti umani, dei quali diceva: io ho una sfrenata passione. Niente, poi Vittorio per due anni è andato altrove e poi arriviamo al 2008, quando, e qui c'è il collegamento con l'attualità, Vittorio con una cinquantina circa di volontari e di attivisti riescono con due imbarcazioni ad arrivare al porto di Gaza, a Gaza City, e da lì poi inizia l'inizio della fine. Ecco, Vittorio si ferma a Gaza e inizia a darsi da fare con i compagni degli SM che a loro volta si sono fermati a Gaza. Fa quello che, cioè, cose anche molto, molto semplici, molto umili. A me viene da sorridere quando penso che i grandi ideali di Vittorio sono diventati in quei giorni le reti da pesca da tirare insieme ai pescatori e il raccolto da fare con i contadini sul confine, perché ci sono dei video che io sto proiettando negli incontri di questi giorni. Vede Vittorio che esce con i pescherecci palestinesi, incrociano le navi da guerra, vengono colpiti da proiettili, in un'occasione Vittorio anche rimane ferito, e lui afferma che i palestinesi hanno tutto il diritto, le acque davanti a Gaza non sono di Israele, che imponeva dei limiti, oltre le top miglia marine non puoi andare. Ecco che allora riuscivano invece a superare questi limiti, a fare delle pesche quasi miracolose. Era questo quello che faceva Vittorio, oppure accompagnare i contadini a raccogliere. Anche qui ben documentati, perché questo era importantissimo, una cosa importante che Vittorio faceva era documentare, scrivere, ma anche filmare. E quindi si vedono proprio i cecchini che al di là del filo spinato tirano addosso loro ai contadini. Si è proprio messo a disposizione dei gazzati. Raccontava loro, parlava loro, condividevano i sogni, le speranze. È questo che ha fatto Vittorio, finché poi è arrivata l'immane tragedia di Piombo, il massacro, come lo chiama, come lo definiva lui. Come suava de stella Betlehem, come suava de stella. E come sono a fumare Stephanes, come sono a fumare Stephanes, thank you. E canta, canta, canta, canta con tambur. E canta, canta, canta, canta Palestina, canta canta speranza, e che speranza canta, risperato in un mondo. Giura Betlehem, come son fuse giura Betlehem, come son fuse giur. Io sono la luna mesca ne colur, o sono la luna mesca ne colur, o sono la luna. E canta, canta, canta, canta con tambur. E canta, canta, canta, canta Palestina, canta, canta speranza, e che speranza canta. Risperato non muore. E le mie maggiore alle mie palestine, e le mie maggiore. E canta, canta, canta, canta con tambur. E canta, canta, canta, canta Palestina, canta canta speranza, e speranza canta, risperata non muore, non muore, canta Palestina. Enza Vitabile feat. Amina canta Palestina, fantastico brano in memoria di Vittorio Arrigoni. E prima invece abbiamo ascoltato Ballata per Vic dei Luff, un brano scritto anche in collaborazione con la mamma di Vittorio Arrigoni, con la quale continuiamo la nostra intervista. Eccoci Egidia, allora ascolta, io adesso ti chiedo di raccontarci un attimo di Piombo Fuso, per l'appunto, perché ne abbiamo parlato a inizio trasmissione. Dacci un attimo una storia di quello che è successo. Sì, Vittorio a novembre viene nuovamente sequestrato, rapito in mare, questa volta dalle motovedette israeliane, è ancora imprigionato, torna a casa, c'è una possibilità di rientrare e lui lo fa. Siamo in dicembre, però non sa che dopo pochi giorni inizia piombo fuso. Questa operazione da parte dell'IDF di Israele, che inizia con i bombardamenti dal cielo e poi anche dal mare, poi entrano anche i carri armati. Ovviamente non puoi più fare ciò che facevi prima, perché il mare brucia, anche i campi, e quindi quando viene chiesto Vittorio dal manifesto se la sarebbe sentita di raccontare, Vittorio dice: ecco, mi sono trasformato in reporter per raccontare quello che altrimenti il mondo non avrebbe saputo. Ed ecco che quotidianamente escono questi suoi report, che poi il manifesto includerà in un libro, Gatta Restiamo Umani. E Vittorio cosa fa? Va con le ambulanze a soccorrere i feriti, a raccogliere i morti, descrive, parla delle vittime, le identifica, la tragedia, tutto il bombardamento. E sono dei pezzi che sono, come mi disse qualcuno, di puro giornalismo, perché certo, il cuore di Vittorio batteva per le vittime, per i palestinesi, soprattutto per i bambini, però dava anche una fotografia proprio di ciò che, di ciò che accadeva. Poi dopo piombo fuso, Vittorio alla fine di quell'anno, nel 2009, riuscì a uscire da Gaza, a tornare a casa, però ripartì verso la fine dell'anno, perché si stava preparando una marcia della pace che dal Cairo avrebbe dovuto raggiungere Rafa. Poi questa marcia in realtà non si tenne, ma con numeri molto molto ridotti. Vittorio in quell'occasione non riuscì a entrare, si fermò forse 3 mesi a El Arish, finalmente riuscì a entrare in Gaza, e lì riprese le attività che faceva prima, incontrando soprattutto in quest'ultimo anno i giovani e scrivendoti e continuando a scrivere sia sul blog che anche degli articoli per il manifesto, fin quando poi nell'aprile del 2011 Vittorio venne sequestrato da questo gruppo di sedicenti salafiti, nonostante avessero dato un termine per la liberazione di un loro affiliato prigioniero nelle carceri di Hamas. Questo termine non fu rispettato e Vittorio venne ucciso. Ecco, questo diciamo è la fine della sua vita terrena. In realtà è stata quasi una rinascita. Dopo la morte di Vittorio è come se lui fosse sempre qui in mezzo a noi, come si dicevi prima, i semi che Vittorio ha lanciato sono fioriti, sono molto numerosi. Io ho preso il testimone, non sono Vittorio, non ho la sua voce così potente, però cammino, vado anch'io, vado ovunque mi chiamino. Dal 2012 sono sempre in viaggio perché mi chiamano proprio per raccontarvi Vittorio. Allora Egidia, adesso io ti chiederei, se ne hai voglia, di raccontarci invece di Vicutopia Onlus, che appunto questo è il percorso che hai creato tu e che stai portando avanti tu, quindi ci interessa molto sapere quale percorso è e come lo stai affrontando. È una fondazione, è nata l'anno dopo la morte di Vittorio nel 2012, le fondazioni hanno il consiglio d'amministrazione, quindi ci siamo io, mia figlia Alessandra e Maria Elena di Lia, che era la compagna di Vittorio. Cosa facciamo? Nello statuto abbiamo proprio precisato che vogliamo continuare l'azione disinteressata di Vittorio a favore dei più deboli in qualsiasi parte del mondo essi si trovino. Quindi noi cosa facciamo? Cofinanziamo in genere dei progetti attraverso delle associazioni o delle ONG in diversi stati. Preferiamo collaborare con realtà presenti sul posto, e quindi i progetti a volte ci vengono sottoposti, a volte li individuiamo noi, e in questi anni praticamente siamo andati, pur restando qui fissi, fermi, in diversi paesi dell'Africa, progetti fatti anche in Palestina, sia in Gaza che nella West Bank, in America Latina, in Afghanistan, e sosteniamo soprattutto quelle situazioni dove sono in particolare i piccoli che non godono dei diritti completi che invece spetterebbero loro. Quindi interventi per l'istruzione, per la sanità, anche interventi ad esempio per l'autonomia alimentare, per le mense scolastiche, borse di studio, e questo è quello che fa la fondazione. E poi come fondazione io sono chiamata appunto anche soprattutto nelle scuole. Infatti questo tutto il bagno scolastico non riesco a tenere il conto di quanti istituti ho visitato, sia scuole superiori, scuole medie, anche delle quinte elementari, e già adesso mi stanno arrivando diverse, molte proposte, e io riesco quasi sempre a dire di sì. Ho visitato praticamente, sono state in tutte le regioni italiane. È molto bello, secondo me, quando sono soprattutto le scuole che mi chiamano. A questi giovani io rappresento Vittorio come un ragazzo di oggi, un ragazzo come loro, con le loro stesse aspirazioni, che è riuscito, certamente con fatica, perché non è stata facile la vita di Vittorio, a raggiungere quello che lui, a diventare quello che lui voleva essere. E questo dà coraggio e dà speranza ai giovani, quando dico loro: sognate sempre, non lasciatevi scoraggiare da chi vi dice ma no, ma perché, è meglio la vita facile, il disimpegno. Vi dico anche loro che ci sarà il momento della scelta, dove avranno davanti due strade: la strada comoda, bella, larga, non faticosa, e quella strada un po' più erta, un po' più difficile, che però è quella che ti porterà a raggiungere il tuo obiettivo. Quindi questo è un po' quello che facciamo e che faccio io in particolare. Beh, un lavoro importantissimo, direi, anche perché, come ci dicevamo prima dell'intervista, anche io insegno musica e teatro, quindi ho degli allievi di tutte le età. I più grandi, che sono delle superiori, alcuni erano ben informati, ma altri addirittura non sapevano neanche il perché la Palestina stia vivendo dei momenti di questo tipo. Non sapevano i motivi e non sapevano la storia. Chiamare una persona come te a scuola che possa raccontare una storia di questo tipo credo che sia veramente importante e fondamentale per i ragazzi oggi, anche per fare delle scelte. Quindi veramente grazie. Ma di niente, grazie a voi, e spero che abbiate tanti ascoltatori. Grazie. E che si appassionano. Vittorio ha scelto la Palestina, ma diceva anche che la Palestina può anche essere fuori dall'uscio di casa. Certo. E anche non è necessario mettersi davanti ai carri armati così a fumare la pipa per dimostrare la forza dei tuoi valori. Certo, grazie. Va quindi bene, per trovare Vic Utopia Onlus vi troviamo sui social? Sì, c'è un sito, c'è proprio il sito della fondazione, Fondazione Vic Utopia Onlus, lo trovi, ci sono diverse cose, anche tante canzoni, le poesie dedicate, fotografie, e ci sono anche tutti i progetti. Perfetto, ti ringrazio moltissimo. Grazie. Ciao. Arrivederci. Ciao. Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché.